Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso, ben ritrovati all'insegna di un tempo incerto, soprattutto al centro nord, con temporale anche grandine e nevicate a bassa quota. In Sicilia abbiamo avuto temperature intorno ai 24-26 gradi, oggi c'è un po' più di fresco, ma si prevede a partire da domani, questo dice il meteo, temperature alte intorno ai, anche ai 36-40 gradi, così almeno fino a fronte della smentita da parte dei meteorologi, insomma, questo dovrebbe essere l'andazzo. Meno giù da noi in Sicilia, mentre al nord ancora qualche schiarita, ma si ripresenterà sicuramente il temporale. Non è ancora arrivato, non si è ancora insediato, non si è ancora insediata l'alta pressione, che è quella che consente poi ai temporali, alle perturbazioni che si avvicinano verso l'arco alpino, di essere respinte e quindi salire verso i paesi scandinavi. Buongiorno a tutti quanti in ascolto in questo momento, vi ricordo che sto ascoltando Carta e Penna, programma condotto e ideato da Filippo Glorioso, alla console come sempre il grande Santi. Potete inviarci un messaggio direttamente dal nostro sito www.crmpiradio.it, seguirci anche in streaming perché c'è anche il video, abbiamo la televisione, quindi potete anche vederci oltre che sentirci, anche se il motto di CRM era la radio che è la radio che si sente e si vede. Oppure potete scriverci se volete su Facebook, vi risponderemo, perché no, o inviateci degli sms al 335 5637 251. Se volete fare delle richieste anche musicali, fatelo allo 0921 92 32 92. Detto questo, guardando i mass media, facendo zapping col telecomando, insomma, non c'è da stare allegri. Persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, la ripresa, a meno per il 2003, non se ne parla, anche se questo governo di coalizione, così come viene chiamato e definito, non è piaciuto a molti, ma a detta di alcuni colleghi di alto bordo del mondo del giornalismo, ma anche della politica, sia da una parte che dall'altra. Ricordiamo che la coalizione di governo è composta da PDL più il PD, stanno facendo qualcosina, insomma, per porre rimedio a dei disastri che sono stati fatti dall'ultimo governo, anche se qualcosa di buono, bisogna dirlo, Monti l'ha fatto, soprattutto a livello europeo. Certo non c'è molto da stare allegri e tranquilli, le banche ancora continuano a non erogare credito, ma fanno degli investimenti per proprio conto, nel senso che preferiscono acquistare bot e CCT, dove speculare poi, tra l'altro, e ricavare quindi il ricavabile, anziché dare soldi all'impresa, di cui senza i quali l'impresa non può creare posti di lavoro. Si parla di detassare un po' il lavoro, i sindacati sono d'accordo anche su questo, e per la prima volta l'altra sera Snaidero, che è il presidente dell'Assolegno, Snaidero sapete, quello che fa le cucine, è conosciuto in tutto il mondo, anche se la bilancia dell'esportazione è positiva, bisogna dire, però per quanto attiene la vendita interna del prodotto interno lordo scende vertiginosamente, siamo scivolati veramente nei bassi fondi della classifica. Oltre alla Grecia, la Spagna, insomma pochissimi altri paesi della comunità economica europea sono scesi così in basso. La Francia traballa, la Germania va invece a gonfie vele. Qui mi sa che il Terzo Reich, così come veniva chiamato da Hitler, si sta realizzando sotto il profilo economico, mentre prima era sotto il profilo militare, adesso invece la Germania detta legge a 360 gradi, se lo può consentire, perché ha un bilancio abbastanza attivo, pochissima disoccupazione, anche se e lì la crisi si fa sentire, perché se c'è crisi in Europa e nel resto del mondo, voglio dire, è chiaro che anche la Germania esporta meno, ed esportando meno si comincia a intravedere anche lì uno spauracchio di, o una parvenza, se possiamo dire, una parvenza di tasso di disoccupazione, ma è molto contenuto, a differenza del nostro tasso di disoccupazione che è molto alto. 595.000 imprese hanno chiuso i battenti, cioè sono andati in fallimento, i suicidi non si contano più degli imprenditori, e per la prima volta bisogna dire che le tre componenti, la triplice componente che compongono appunto un'industria, cioè l'imprenditore, i propri dipendenti e il sindacato, sono d'accordo per la prima volta insieme, scendono in piazza, protestano, cose che non si vedevano da decenni o quasi mai, si può dire, per la prima volta invece sono all'unisono e chiedono al governo nazionale, ma all'Europa innanzitutto, una maggiore flessibilità sui conti pubblici italiani e un maggiore intervento del governo nazionale, ma anche, se vogliamo, della comunità economica europea, affinché allenti un po' le morse. Qualcosa questo governo, bisogna dire, ha fatto. La prima casa è stata depennata dall'IMU, si pagheranno le altre case come giusto che sia. E un altro argomento importante è che sono sbloccati 40 miliardi a fronte degli 80 che avanzano gli imprenditori che hanno lavorato, hanno venduto la pubblica amministrazione. Anche questo, insomma, è un dato di fatto. Un altro dato positivo, questa volta parliamo quindi della Sicilia, dove i gabinetti di analisi, sapete, dove noi tutti andiamo a farci il prelievo per sapere un po' in che condizioni il nostro motore generale, il nostro corpo sta, erano scesi sul piede di guerra, cioè scioperando, perché la regione non voleva più erogare, cioè non c'era più la convenzione tra la regione e i gabinetti d'analisi, appunto. Adesso l'ultima notizia è, proprio in questi giorni si sono firmati i contratti di intesa tra la regione e i gabinetti stessi di analisi, e quindi le consulenze, chiamiamole così, possono riprendere pagando un minimo ticket che è previsto, tra l'altro, per chi non ha l'ISEE. Fatta questa premessa, tra poco parleremo con un sindacalista, che è il dottor Sarrica, perché c'è sul tavolo un altro grosso problema. La Valtor di Finale di Pollina non ha aperto quest'anno i battenti, a fronte di questo invece si è aperto in un'isola vicino alla Sicilia, e lo chiederemo poi al dottor Sarrica qual è la situazione in essere. Si sono giustamente le parti dei lavoratori che orbitano sul Finale di Pollina, sulla Valtor di Finale di Pollina, sono scesi in sciopero. Stamattina sono partiti per Roma per capire un po' quello che si può fare per sbloccare questa situazione. Sta di fatto che la Valtor ha messo sul posto di lavoro, al posto di questi licenziati per causa di forza maggiore della Valtor di Pollina, ha preso degli extracomunitari e li ha allocati alla Valtor. Se non ricordo male, non mi pare che, non vorrei sbagliare, Ustica, ma forse sbaglio. Lo chiederemo a Sarrica, dove è ubicata l'altra Valtor qui in Sicilia, proprio ai confini con la Sicilia, l'altra isola che va per la maggiore. Quindi dicevamo, io do un attimo la linea alla regia, al rientro sentiremo cosa da dirci il dottor Sarrica, nella posizione di sindacalista in questo momento e di fomentatore, appunto, di questa rivolta pacifica, fortunatamente in questo momento, anche se si parla di occupazione sia della Valtor di Pollina che quella che è stata aperta invece a pochi miglia dalla nostra Sicilia, sempre Valtor, comunque parliamo. Linea alla regia. E allora, dopo questa pausa per i consigli per gli acquisti, chiaramente per chi ha delle disponibilità economiche, oggi i tempi, dicevo, sono molto grami, ma è appunto di questo parleremo tra poco con uno dei dirigenti sindacali, uno dei massimi dirigenti sindacali, il dottor Pino Sarrica, che dovrebbe essere al telefono. Pronto, Sarrica? Ah, non è ancora al telefono, va bene. Allora, dicevo, per chi ha i soldi per fare le spese, è normale, i tempi sono quelli che sono, e a tal proposito tra poco affronteremo l'argomento, uno dei due argomenti. Il primo riguarda appunto la Valtor in Sicilia, Finale di Pollina chiude i battenti, quest'anno non apre, viene occupata dalle maestranze con a capo appunto il sindacato, che cerca di sbloccare la situazione, che di fatto non è delle più rose. I commissari che hanno la gestione della Valtor nelle mani hanno preferito nella nuova apertura che c'è stata in un'altra Valtor qui vicino alla Sicilia. Adesso chiederemo esattamente dove è allocata questa Valtor, in quale delle isole vicino alla Sicilia è ubicata la Valtor. Hanno preferito prendere manovalanza o operai, per così dire, extracomunitari, anzi, i rumeni non sono più extracomunitari, quindi i rumeni, cioè i forestieri, e inserirli al posto degli operatori che erano disponibili invece a Finale di Pollina, senza convocare le parti e senza chiedere nulla. A questo punto io direi di sentire, ecco, in diretta. Allora, ringrazio il dottor Pino Sarrica per il suo grazioso intervento, lo sto distogliendo da impegni istituzionali in questo momento, si trova a Roma, quindi dottor Sarrica, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi e a tutti i gentili ospiti in studio. Allora, ricordiamo a tutti i radioascoltatori, per chi non lo sapesse, ma molti lo sanno, Pino Sarrica che è stato ex sindaco di Pollina, è stato sempre a fianco dei lavoratori che hanno operato per anni presso la Valtor di Pollina, fortemente voluto anche dall'amministrazione comunale di Pollina. Adesso invece sei in veste di sindacalista. Cosa è successo con la Valtor di Pollina quest'anno, Sarrica? Ma è successo da questo, che in pratica, come tutti insomma sapranno, la Valtur è in amministrazione controllata straordinaria dal 18 di ottobre 2011. Il compito di questi commissari qual era? Era quello di salvaguardare l'azienda, evitare che portasse l'ingiusto fallimento e nel contempo assicurare l'occupazione. Quindi la mission principale era questa. Sì. Si sono inanellate una serie di iniziative per la vendita del pacchetto Valtur, che poi è stato spezzettato praticamente alla vendita, visto che il primo bando, la prima gara era stata deserta. Nel secondo bando di gara, scaduto il 28 di febbraio, avevano che riguardava quattro villaggi, i villaggi di Favignana in Sicilia, di Isola Caporizzuto in Calabria, di Ostuni in Puglia, provincia di Brindisi, di Marileva nel Trentino. Praticamente ci dovevamo incontrare, cosa che puntualmente è avvenuta il 15 di marzo al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico. Sì. Al Ministero dello Sviluppo Economico precomunico che ancora non erano in condizioni di valutare, di fare una valutazione seria sotto il profilo industriale, e rinviamo il tavolo tecnico al 10 di aprile di quest'anno. Il 10 aprile ancora una volta chiedono insomma un rinvio di una settimana, 10 giorni, e fino al 15 maggio, quando è partita una richiesta urgente di convocazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai commissari, stigmatizzando tutto questo ritardo, questo comportamento, che notizie venivano apprese così dalla stampa, finalmente domani abbiamo una manifestazione, perché intanto hanno comunicato come un boomer a ciel sereno, con una decisione unilaterale, senza tenere conto delle relazioni sindacali e di quel percorso che si è avviato a livello di tavolo tecnico. Comunicano il venerdì scorso, una settimana fa, che il villaggio di Pollano e quello di Santo Stefano in Sardegna non avrebbero aperto, ovviamente calpestando quelle che sono le relazioni, l'etica professionale, il bon ton di una commissione straordinaria, credo che sia quello insomma di... Ti fermo un attimo, Pino. È vera la notizia che in questa isola vicino alla Sicilia, io mi sfugge il nome in questo momento, ecco, a Favignana, esatto, ti chiedo scusa, si sono aperti i battenti della Valtur, ma sono stati assunti personale non prelevato dalla chiusura precedente di Pollina, ma ex novo come personale, o sbaglio? No, non c'entra, ascolti, innanzitutto Favignana era stato programmato, intanto fa parte del pacchetto dei quattro villaggi di vendita che ti ho detto io poc'anzi, e che dovrebbero ufficializzare, perché oggi il ministro non ha ufficializzato la vendita di questi quattro villaggi. E questo, il villaggio di Favignana, alcuni servizi sono esternalizzati, lavora personale che ha precedentemente lavorato. E che quindi è falsa la notizia, Favignana, è falsa la notizia, vabbè. È falsa, quando avessi il battente Favignana ancora non si sapeva della chiusura di Polla, tant'è che l'avevano programmato in brochure quando è uscita che il villaggio avrebbe aperto il 2 giugno e che prenotazioni si erano accavallate, e poi nel comunicato i commissari ribadivano la chiusura di Polla e offrivano una soluzione alternativa alla clientela che aveva scelto Polla in virtù di quella comunicazione di apertura ufficiale del 2 giugno l'ultimo scorso. Ecco, adesso... Ho capito. Quindi a Roma siete domani, cosa farete di preciso? A Roma partiremo questa sera due pullman da Pollina, da finale di Pollina e Pollina, per raggiungere Roma domani mattina al 10:30. Abbiamo un sit-in di protesta, un presidio, chiamiamolo come vogliamo, e a mezzogiorno saremo ricevuti in delegazione ristretta dal Ministero. Per cui noi ci auspichiamo che in quella sede quantomeno vengano dette le motivazioni che noi per la verità insomma conosciamo, che sono un po' annose, non è che li stiamo scoprendo ora. Sì. Ma io, così come ho detto nell'ultimo consiglio straordinario che si è tenuto a finale di Pollina, di davanti ai cancelli della Valtur, ho detto che solo un miracolo politico può salvare l'apertura del villaggio. Perché miracolo politico? Essendo che c'è una querelle, un contenzioso tra ex Sviluppo Italia, oggi Invimitalia, che è il braccio operativo del Ministero dello Sviluppo Economico, e praticamente la Unicredit Leasing, perché a suo tempo la vecchia proprietà aveva fatto ricorso a un leasing, aveva garantito Sviluppo Italia per la famiglia allora Patti. Sì. Per cui l'Unicredit oggi insomma avanza un credito di 16 milioni di euro, per cui questa querella solo insomma lì a livello politico può essere di risolta. Secondo te che previsioni ci possono essere, Pino? Ma sai, ripeto, se c'è un miracolo politico, se io credo che le condizioni, perché vedi, Unicredit Leasing sarebbe anche disponibile Azzari, il villaggio, in, perché non avendo vista, riscattato l'ultima rata la famiglia Patti a suo tempo a seguito di quel leasing, sì, praticamente c'è la moglie oggettiva l'area della struttura del villaggio, e allora lei sarebbe disponibile anche a darlo in gestione a titolo gratuito, pur di salvaguardare l'immobile, perché l'interesse ovviamente è ovvio, è la unica area del villaggio che non apre, si depressa, insomma va in rovina, va in malora la struttura, per cui, e quindi l'intervento pubblico quale sarebbe? Dire ai commissari, visto che i commissari sono promanazione, diramazione diretta, sono stati designati dal Ministero dello Sviluppo Economico, aprire la struttura per quest'anno, dove poi le questioni giuridiche, amministrative e cose li risolviamo, ma ci vuole un forte intervento politico, una forte volontà politica, insomma, per poter risolvere il, per sciogliere il nodo e risolvere il problema, la questione indicatissima. Pronto? Sì, sì, ti sento. Allora, quindi dato... Io dico, siamo speranzosi che domani, insomma, quantomeno, che sa, io come ho detto l'altra sera in consiglio straordinario, la speranza è l'ultima a morire, insomma, noi, io vorrei evitare di usare un termine, sai, è stato inferto un colpo mortale, non lo vorrei ripetere, insomma, una gravissima ferita, mettiamola così, perché se no, insomma, diamo per scontato che non c'è una, c'è una soluzione di non ritorno. E siccome io... che il danno è enorme, perché se tu consideri che, date le emergenze che c'è a livello nazionale e internazionale, considerato che Pollina, il villaggio Valpolo, contribuiva assieme all'altra e qualche altra risorsa a determinare un reddito pro capite medio che era, assegnava al comune di Pollina al decimo posto per gli 82 comuni della provincia di Palermo, lo assegnava l'Istat qualche anno fa, e quindi la fonte che determinava questo reddito pro capite medio qual è? Ovviamente la Valturre, quindi il danno sarebbe una tragedia per la comunità, per tutti. Ma non è soltanto una tragedia per il comune di Pollina, ma per tutto l'Interland, voglio dire, perché i lavoratori venivano un po' da tutta la... Il club mezzo non ha aperto più i battenti, chiude la Valpolo e chiude la Fiat, insomma, siamo ridotti all'osso. Compaiono quelle che sono le attività produttive, quelle che danno un minimo di respiro, diciamo, insomma, all'economia. Allora io devo rettificare il discorso che dicevo prima, cioè una notizia che mi era stata data, ma era una notizia falsissima, nulla di tutto questo, non ci sono personali, non c'è personale che lavori, che sono né rumeni né extracomunitari, che sono stati allocati. Ma i rumeni, guarda, ma i servizi li sono esternalizzati, i rumeni non stanno lavorando da oggi, i rumeni lavorano da anni. In Valturne, lavorano a Santo Stefano, lavorano a Marileva, cioè il servizio di alcuni servizi sono stati esternalizzati, sala e altri reparti, piani e quant'altro, insomma, dico, quindi a Vignano non è da oggi che lavorano lì in Romena, che sono esternalizzati alcuni servizi. No, ma non era per, attenzione, non era per discriminare nella forma più assoluta, era che no, aveva ci detto, da, no, in Romena nel senso prendere... che ci sono questi lavoratori, perché la cooperativa ha sede. No, dicevo questo, qualcuno ha paventato il fatto, non hanno preso il personale che era, che era fermo di Pollina, poteva allocarlo lì, e hanno preso personale esterno. In realtà così non è, quindi diamo la notizia che è stata una notizia falsa. Ci sono state sempre queste figure professionali, assolutamente. Perfetto, no. Ma ben vengano, per carità di Dio, perché ci sono italiani che quel lavoro lì non lo vogliono fare più, per cui di conseguenza non è che tolgono lavoro a nessuno. Quel lavoro, la sala, quelle che fanno in Romena lo farebbero ben volentieri, lo hanno sempre fatto, hanno sicuramente espulso lavoratori nostri, no? Questo ha comportato laddove nei villaggi non c'era, nelle realtà dove hanno istituito questo, non c'era una realtà sindacale forte, loro hanno fatto questa penetrazione, portato in Romena a Pollina, a Caporizzuta, a Ostuna, ma c'è una situazione forte, nel senso che i lavoratori sono tutti del posto, nelle realtà turistiche, certo, dove gravitano i villaggi. E lì non capisce, dove hanno trovato terreno fertile, intervenne ovviamente la gente, non è che può intervenire per la Gioaltura, è un illustre sconosciuto, perché lì lavorano tutti, le strutture alberghiere, il turismo è tale, insomma, la domanda, l'offerta turistica supera la domanda, per cui questo problema, insomma, non ce l'hanno, però ha danneggiato le realtà del sud che andavano in questi villaggi, certo, in Sardegna a lavorare. Certo, ma mi sorge spontanea una domanda, Pino, ma la regione siciliana, a fronte, leggevo qua e là stamattina sulla formazione, per esempio, qualcosa si sta muovendo, non si capisce ancora in quale direzione, ma c'è un accordo, quantomeno formale, non ancora scritto, verbalizzato, voglio dire, su carta, da parte dell'assessore e del presidente della regione con i sindacati e le forze lavoro della sì, hanno messo alcune, hanno fatto un protocollo d'intesa, lo perfezioneranno. Ma possibile mai che la regione non si faccia carico anche di protestare fortemente verso Roma, verso la Comunità Economica Europea, non so verso chi, perché non faccio il politico, ma la regione dovrebbe essere parte in causa, perché sono migliaia di posti di lavoro che si perdono sia nella formazione, ma anche soprattutto nelle strutture alberghiere, e la Valtro è una di quelle, era una struttura ricettiva che dava lavoro, ma che portava anche benessere, che si arrivava valuta pregiata, voglio dire, non è che si vendevano. La valvola ha qualificato e ha rappresentato nel corso degli anni a livello nazionale, a livello nazionale sicuramente una tappa importante, insomma, del senza turismo dubbio, italiano. Senza dubbio. Valvola ha rappresentato. Ovviamente c'è il numero di lavoratori e tale, perché non è che si guarda, capisci, alla qualificazione dell'offerta, al marchio, a un pezzo importante che scompare, insomma, di un settore trainante, quello che dovrebbe essere il turismo. Ovviamente gli interessi, le sollecitazioni e le pressioni sono diverse da quello che può essere un esercito di dipendente della formazione che ti risponde al numero di 8.000, 9.000, 7.000. Ah, ecco, una questione di numeri, allora. 110 dipendenti ovviamente non possono fare quel rumore che possono fare. Ho capito. Gli addetti alla formazione, gloriosa. Pino Sarriga, intanto noi ti ringraziamo perché stai facendo una cosa benemerita come sindacalista. Grazie a voi, mi date la possibilità di spiegare, insomma, qual è effettivamente lo stato dell'arte della vertenza senza tema di smentita. Bene, noi ti facciamo tantissimi in bocca al lupo, soprattutto ai lavoratori che in questo momento si trovano senza soldi. Saluto, ecco, ancora agli ospiti studio. Grazie a te Pino. E allora era Pino Sarriga da partenza per Roma con due pullman, come diceva lui stesso, con 110 dipendenti che sono fermi e sono senza busta paga, non hanno certezza di lavoro, e quella notizia che mi era stata data, cioè che questo personale che era stato licenziato per forza maggiore di cose, perché se la valvola Follina non apre è chiaro che il personale non può lavorare, mi era stato detto che erano stati sopperiti da personale esterno. In realtà così non è, ma anche quando c'è il personale esterno, se nella legalità, per carità di Dio, ben vengano. Il punto è che questa gente si trova in questo momento, possibilmente con marito e moglie, come moltissime altre famiglie, tantissimi lavoratori in Italia, non soltanto in Sicilia, senza possibilità di approvvigionamento economico, e questo è dura. Io spero che la regione muova anche qualche passo, nel senso di far riaprire parzialmente, si vedrà qualche mese anziché 6, 4, insomma, trovare una soluzione affinché, insomma, si esca fuori da questo baratro dove l'Italia, e non solo l'Italia, ahimè, è caduta. Tra poco parleremo di un altro argomento, intanto io desidero ringraziare Impronte Calzature, che trovate anche su Facebook, uomo, pensate, le firme sono straordinarie, Carrera, oppure Renato Balestra, Pier Cardin, per la donna poi, insomma, c'è Francesco Milano, Carla Sanchez, insomma, non ho cosa dirvi, sono scarpe straordinarie, firmate, mettetele i piedi perché i piedi hanno bisogno di star bene per star bene noi. E poi per il bambino c'è Asso, Walt Disney e tantissime altre situazioni, che lo trovate a Campo Felice di Rocella in via Cesare Civello 53 e a Castelbuono in corso Umberto 1 70-72. Ma non finisce qui, perché Impronte Calzature nel tempo ha dato veramente soluzioni straordinarie per i nostri piedi. Tutta la linea mare, che è importante, anche se il tempo ancora non ci consente di sognare delle spiagge favolose, però insomma si spera che da domani il tempo possa cambiare. Ancora le pantofole De Fonseca, linea comoda, la Riposella, e pensate che tutto parte da 19€ per finire a 59€. Ricordate questo marchio, questo nome che è straordinario, Impronte Calzature, da sempre ai vostri piedi. Poi bisogna anche ringraziare Biscottificio Fratelli Tumminello, perché oltre ai biscotti fa un buonissimo pane, ma parliamo dei biscotti perché la colazione è importante, farla la mattina, farla con prodotti genuini, e chi meglio di Tumminello li fa questi biscotti, perché le uova e il latte sono rigorosamente di Castelbuono, sono locali, senza aggiunte di additivi, facciamo dei biscotti veramente belli, buoni, belli da vedere ma buoni da gustare, al burro integrale, al cioccolato, tutti i biscotti fatti senza additivi, vi ricordo, semplicemente uova e latte regolarmente presi dal posto, da Castelbuono, quindi dalle Madonie. Quindi andatele a comprare, gustate, ma anche la sera davanti alla televisione potete sgranocchiare qualche biscottino, magari al cioccolato se vi piace, o se preferite i rustici, insomma fate voi. Vi ricordo, per le prenotazioni, panificio biscottificio Fratello Tumminello a Castelbuono, telefono 0921 67 11 32, chiedete i biscotti e mangiateli, perché mettete a tavola e nella vostra bocca qualcosa di veramente naturale, come mai ormai poche cose restano naturali, tutto è industrializzato, per cui dobbiamo andare alla ricerca di cose genuine e nostrane. Io mi fermerei un attimo, darei la linea alla regia, al rientro parleremo di formazione. La musica nuova è su CRM Happy Radio. Il tuo silenzio ha fatto un bel disastro, ci ha trascinati qui a farci ribollire ad ogni sguardo, e tutto è guasto. Non mi rimane che ogni tuo dettaglio e prenderti così. braccio spoglio senza orgoglio. Fermarsi qui, arrendersi ad un dolore insonne, poi più niente. Senti le stelle come esplodono su questa pelle ormai stanca di lacrime. Volevo aggiornarvi, vi ricordo intanto che sto ascoltando su CRM Radio Carta e Penna, programma ideato e condotto in studio da Filippo Glorioso, alla console della parte tecnica sempre Santi. Volevo aggiornarvi su un fatto che è accaduto circa, ormai sono passati 20 giorni di intense ricerche da parte delle forze dell'ordine, della protezione civile e anche di volontari, della scomparsa del signore Shalab, questo signore anziano di 77 anni, di 1,65-66 circa, che era nella propria campagna. E nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30-18, non si hanno avuto più nessuna notizia, nonostante i reparti cinofili dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, del Corpo Forestale dello Stato siano intervenuti a cercare con i cani di capire qualche traccia, di vedere se c'era la possibilità di essere ripreso, insomma, e ricondotto agli affetti della propria famiglia. Ma tutt'oggi ancora, ahimè, la settimana scorsa abbiamo sentito l'assessore Capuana del comune di San Mauro che ci ha ragguagliato su quelle che erano state le ricerche fino a quel momento, poi sospese 3 giorni, adesso sono state riprese anche con l'ausilio di elicotteri, ma ahimè ancora non c'è nessuna notizia che ci possa far sorridere, quindi un lieto fine. Speriamo che questa situazione migliori al più presto possibile, cioè nel senso che il signor Shalab venga intercettato, venga trovato in un modo o nell'altro, speriamo nel modo giusto, cioè ancora in pieno vigore e in piena salute, e ricondotto a casa, dove chiaramente ad aspettarlo ci sono i propri congiunti. Detto questo, dicevo prima che la Confindustria denuncia la perdita, pensate, di 539.000 posti di lavoro, chiuse 55.000 aziende per la durata e la profondità della crisi, ma l'Italia ha ottime carte da giocare. L'altra sera, vi dicevo in televisione, il presidente dell'Assolegno, il dottor Snyder, parlava che la bilancia con l'esportazione, soprattutto per quanto attiene il design italiano, è in buonissima posizione, insomma, gli articoli italiani, dalla moda al all'arredo casa e via di questo passo è in ottima posizione. Il problema è che all'interno del nostro paese non si vende più nulla. La causa, ma la causa è la crisi, la causa è la preponderanza fiscale nei confronti di chi fa impresa, quindi si sta discutendo, appunto dicevo prima, il governo sta discutendo la possibilità di abbattere un po' i costi dell'impresa stessa a favore, d'accordo anche con i sindacati e le maestranze delle aziende. Per la prima volta i lavoratori si trovano a stretto contatto di gomito, protestano insieme ai propri imprenditori, insieme ai sindacati. Una cosa del genere non si vedeva da moltissimi anni. Il ministro dello sviluppo Zanonato, le imprese italiane, dice, devono essere emesse alla stessa identica condizione delle imprese europee. Si parli più di terapia che di diagnosi. Il paese ha bisogno disperato di crescita. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi rilancia l'allarme degli industriali chiedendo convinzione e condivisione politica per mettere in campo una strategia di ampio respiro. Subito pochi provvedimenti ragionati e concreti, ma coerenti con una visione di lungo termine e ampio orizzonte. Il rapporto di giugno sugli scenari industriali del centro di studi di Viale dell'Astronomia avverte che l'industria manufatturiera italiana, parliamo quindi di moda, è messa in pericolo dalla durata della profondità della crisi stessa, ma sottolinea anche che l'Italia, che è riuscita a difendere il ruolo di settima potenza industriale al mondo e seconda in Europa, ha ancora ottime carte da giocare. Puntare sul manufatturiero, che per ogni punto di crescita porta un aumento di 1,5 punti del PIL e prodotto interno lordo. È la strada indicata dagli economisti di Confindustria, che nel rapporto analizzano la lezione dei migliori paesi avanzati ed emergenti: più manifatturiero uguale più crescita. Per cui è tutto il cane, insomma, che si morde la coda: più si investe, più si guadagna, meno crisi c'è. Se non si investe e non si creano posti di lavoro, non c'è liquidità, non c'è possibilità che le famiglie possano spendere quello che poi giustamente nel quotidiano serve alla famiglia. Oggi pensate che le massaie fanno i conti anche con la frutta, insomma la frutta per gli italiani, come la carne, come tutto era essenziale nelle nostre tavole. Adesso si va con molta più cura e con molta attenzione. La cosa che lascia sgomenti tutti quanti noi è che c'è gente, ahimè, non soltanto che non riesce più a pagare la bolletta della luce o del gas o il condominio. L'altra sera in un servizio televisivo, in un programma ben fatto, devo dire ben gestito, hanno intervistato un capo condomino, il quale, pur di far pagare i propri condomini morosi, ma non per cattiveria, perché non riescono a pagare, perché non hanno più i soldi per pagare, perché sono disoccupati, bene, gli bloccano l'ascensore e hanno fatto una forma di card. Se tu hai pagato il condominio, bene, hai la card, inserisci la card dentro l'ascensore, c'è un apposito congegno che fa sì che la card inserita sblocchi l'ascensore e l'ascensore sale. Altrimenti, se tu non sei stato presente nel puntuale con i pagamenti presso il condominio, bene, il condominio ti taglia, devi salire le scale. Stessa cosa dicasi per i riscaldamenti. Quindi capite che qui tra poco, se si va davanti di questo passo, scoppierà qualche, non la terza ma la quinta e l'ultima guerra mondiale, perché se io non ho soldi per pagare il condominio e non posso nemmeno riscaldarmi, perché non pagando il condominio il capo condomino insieme ai miei condomini mi tagliano anche la possibilità di riscaldarmi, già non mangio di mio. Se mi togliete anche la possibilità di riscaldarmi, insomma, capite che poi il cervello di qualcuno potrebbe andare in tilt. Ci auguriamo che queste cose rientrino, ma ahimè la realtà è questa. Si vedono gente di tutte le posizioni, insomma, media borghesia, lavoratori, ma anche qualche manager comincia a vedersi, soprattutto nelle grandi città, che va a prendere il proprio piatto per mangiare nelle mense della Caritas, insomma, ma ancora più grave, gente anziana che con la pensione non ce la fa, non ce la può fare con 400 euro di pensione, è costretta ad andare a rovistare, sapete, quei mercatini rionali che ci sono, e spesso chi scarta, cioè chi ha soldi, scarta le cose più meno appetibili. Ebbene, quelle diventano appetibili per chi non ha più il portafoglio pieno di soldi, ma deve arrabattarsi per riempire la pancia, ahimè. ed è una cosa bruttissima da vedere, ma soprattutto da fare, perché insomma ci si umilia fino a quel punto lì. E gli anziani hanno dato tanto in termini di lavoro alla nostra società, e la nostra società, ahimè, li ricambia in un modo non certo degno di chiamarsi democrazia. La colpa è la colpa è da addossare a tutti, soprattutto all'economia e a chi ha in mano il timone dell'economia, quindi grandi banchieri, da non confondere con i bancari che sono dipendenti della banca, ma con i banchieri, coloro i quali hanno in mano veramente il potere economico, che investono, che speculano a livello internazionale con le borse soprattutto. E c'è stato un effetto domino, è partita dagli Stati Uniti questa crisi, è arrivata in Europa e non si sa quanto ristagnerà tra noi. Intanto, dicevo prima, il governo cerca di porre rimedio, la regione cerca di fare qualcosa per stoppare alcune situazioni, tra cui c'è l'avalto, tra cui c'è anche la formazione, come ricordava prima l'avvocato Pino Sarrica, che ci stava parlando telefonicamente, ci ragguagliava sulla situazione della Valtor e diceva la formazione ha 8.300 dipendenti, quindi sono un bel gruppo e si fanno sentire. Chi lavora alla Valtor, soprattutto quello di Pono, sono 110 persone, capite che una noce sola nel sacco non fa rumore. A proposito di formazione, dicevo prima che il nuovo assessore alla formazione, Nelli Scilabra, si è fatto un'intesa tra i sindacati e anche gli enti della formazione per rimettere in sesto questa situazione di queste 8.100, tra cui 350 licenziati già in uno degli enti più grossi che abbiamo in Sicilia, ma anche gli altri enti si paventa la stessa cosa. A partire dal 30 giugno c'è il giallo dei dipendenti realmente in servizio e quello dei pensionati. Eppure l'accordo dell'assessore della formazione Nelli Scilabra firmerà con i sindacati parte proprio dalla creazione di un albo unico dei lavoratori, dall'avvio di un piano di prepensionamenti per far scattare anche dal punto di vista amministrativo una riforma che per quanto riguarda i costi sta invece faticosamente già muovendo i primi passi. Il governo ufficializzerà la firma dell'accordo, che per il 2013 metterà a disposizione degli enti che gestiscono i vecchi corsi 220 milioni a fronte dei 286 dell'anno scorso. Saranno poi gli enti a indicare entro quali settimane e quali lezioni, insomma devono dare un calendario di massima per capire cosa è successo. Anche gli enti danno il via libera, Crocetta e la Scilabra strappano anche il consenso agli enti gestori dei corsi sul nuovo piano per la formazione professionale. Le associazioni degli enti sono state convocate a Palazzo d'Orléan, dove la Scilabra ha illustrato le ultime modifiche, gli aumenti al budget rispetto agli annunci della settimana scorsa, e a questo punto, spiega Paolo Genco, presidente dell'ANFE, il personale è praticamente tutto garantito e non possiamo tirare la corda oltre un certo limite. Finalmente l'intesa verrà siglata a Palazzo d'Orléans tra qualche ora, e in vista di questo atto formale i sindacati hanno provato a tenere alta l'attenzione. L'accordo non è ancora siglato, dicono, attendiamo soluzioni definitive sulla continuità occupazionale e lo sbocco degli arretrati, garanzie che Crocetta ieri ha ribadito. Quindi quantomeno per questi dipendenti, insomma, è chiaro che c'è una soluzione pressappochista, insomma non è ancora tutto chiaro, nulla è stato ancora firmato, quindi attendiamo la firma di questo protocollo d'intesa, ma certamente la situazione di tutti i lavoratori in Italia e soprattutto in Sicilia va salvaguardata in tutti i sensi. Ci sono notizie, vi dicevo prima, non certo confortanti. Avete sentito quanto si è perso nell'industria? Si parla di ripartire con il manufatturiero, si parla di partire con le piccole e medie imprese, che sono poi l'asse portante dell'economia italiana, e se chiudiamo queste, sinceramente non troviamo, noi che in Italia sappiamo soltanto trasformare, abbiamo le industrie siderurgiche che trasformano, abbiamo le industrie manufatturiere, non produciamo cotone, è ovvio, lo importiamo, però poi riusciamo a creare delle cose come quelle che ha creato Missoni, dei capolavori, ecco, di moda, che ci invidiano tutto il mondo. Poi il nostro design, insomma, dalle macchine a finire a finire anche alla gastronomia, all'enogastronomia, abbiamo molto da insegnare e nulla da imparare. Quindi c'è molta carne al fuoco. L'augurio che ci facciamo è che questo governo, che già qualche passettino lo sta facendo, a proposito di questo, a cavallo tra il 26 e il 28 di giugno a Roma ci sarà un convegno con i ministri dell'economia di tre paesi importanti, quattro paesi, Italia, Francia, Germania e Spagna, appunto per parlare dell'occupazione in generale, ma in particolare dell'occupazione giovanile. Noi ci fermiamo un attimo e a questo proposito io desideravo ringraziare dunque un'azienda straordinaria, Salamone Genovese SNC. Perché? Perché in un momento nel quale si avvicina l'estate, ci sono le sterpaglie, chi vuole fare l'orto eccetera, deve rivolgersi per forza maggiore di costo a Salamone Genovese. Per quale motivo? Perché ci sono le motoseghe come l'Alpina, che è una firma e una garanzia, oppure naturalmente con il centro assistenza, le moto zappe della Forte ed altre marche per l'irrigazione, tutto, gli impianti a gocce, tube di irrigazione, ale gocciolanti e la raccorderia che serve per fare questo tipo di impianto, perché vi evita di mettere il tubo in mano e innaffiare voi, stare impegnati lì mentre innaffia automaticamente, voi vi dedicate ad altro lavoro. Poi ci sono i quad, per quanto attiene il tempo libero, per girare liberamente in campagna, se non amate i cavalli, il quad vi può essere di aiuto per fare delle escursioni magari tra sabato e domenica, il tempo libero vostro, cross e mini cross, tutto per la campagna, c'è l'utensileria che serve appunto per decespugliare, per pulire la vostra campagna. Via Roma 75, telefono 091 89 91 350, Salamone Genovese SNC, per informazione accerta naturalmente, per informazione info@salgen.it oppure www.salgen.it, e vedete di cosa vi sto parlando. Se poi avete invece problemi di denti, sia da sistemare che da estirpare o da curare, dovete andare dallo studio della dottoressa Domizia Di Fazio in via Sant'Anna 81-86 bis a Castelbuono. Per quanto attiene i problemi di denti, di denti storti o qualsiasi altra malformazione nei vostri denti avviene, per la dottoressa Domizia Di Fazio è specialista in ortodonzia. Se invece avete altri tipi di problemi, come per esempio le carie oppure l'implantologia, accanto allo studio, nello stesso studio della dottoressa Di Fazio, c'è Domizia Di Fazio, dicevo bene, c'è l'odontoiatria. Per cui andate in via Sant'Anna 86 bis e troverete lo studio della dottoressa Domizia Di Fazio a vostra disposizione, con gli specialisti che vi seguiranno passo passo per quanto attiene la vostra bocca e i vostri denti. Io direi di fermarci un attimo, diamo la linea alla regia, al rientro poi passeremo i saluti con un ultimo argomento e naturalmente l'appuntamento poi ve lo do anche per domenica. Intanto linea alla regia. Vado incontro al mio destino, questo è un giorno disumano, sulla strada a piedi nudi, lontano te ne vai. Il vento soffierà, sono segni sulla pelle, tuoi messaggi dalle stelle, sarà l'acqua, forse il fuoco, ma polvere sarà. Che il vento porterà e tutto scomparirà, e il vento soffierà. La carezza e la mitraglia, dopo un bacio la battaglia, le parole e poi gli intenti e i soliti silenzi. Il vento soffierà. Siamo tracce senza segni, siamo barche senza remi, anni belli di tormento e suoni più lontani che il vento porterà e tutto scomparirà, ma il vento soffierà. di terra e sangue sotto un cielo che non piange, questo senso d'infinito è polvere di te. Che il vento soffierà. Siamo profughi sfiniti, non ci siamo mai lasciati, senza ombre, senza voce e poi senza età. Il vento soffierà e tutto scomparirà. Il vento soffierà. E allora eccoci qui, siamo in fase di chiusura, sono le 13:04, 8 minuti in questo momento. Chiudiamo con una notizia allarmante per quanto attiene la Sicilia: aumentano le rapine in banca, in Italia no, ma da noi purtroppo sì. Il numero delle rapine in banca, pensate, aumenta in Sicilia mentre il resto d'Italia diminuisce. Nel 2012 infatti in tutta Italia sono stati compiuti ben 940 colpi allo sportello, con una diminuzione pari al 14% rispetto a 1097 del 2011, in calo del 13% anche il cosiddetto indice di rischio, cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli, che è passato da 3,3 a 2,8, e il bottino complessivo, che è passato da 25 milioni di euro del 2011 a ben 24,5 milioni di euro del 2012, pari a meno 2,5%. In Sicilia però l'anno scorso le rapine sono state 100 contro le 64 del 2011, quindi ancora in un'escalation. Sono questi i principali risultati dell'indagine condotta da OSSIF, il centro di ricerca ABI in materia di sicurezza, presentati al convegno Banche e Sicurezza nel 2013. Il trend positivo che ha caratterizzato il fenomeno degli ultimi anni, con una riduzione ben 68% del 2007 ad oggi, nota l'ABI, che è l'Associazione Banche Italiane, è anche il frutto del lavoro congiunto di banche e forze dell'ordine. Questa stretta collaborazione ha dato i suoi frutti anche sul fronte della repressione. Nel 2012, secondo i dati operativi del Ministero dell'Interno, i responsabili di oltre il 40% di colpi allo sportello sono stati individuati anche grazie alle immagini digitali forniti dalle banche. Bene, tutto questo succede in Sicilia, cioè mentre in Italia il trend tende a scendere, in Italia invece il trend scende. Detto questo, volevo ringraziare l'ultimo sponsor della trasmissione, Croce Verde, volontario sociosanitario per le manifestazioni sportive. Cosa si intende? È munito di una ambulanza accessoriata durante le manifestazioni sportive, gare automobilistiche oppure pali di cavalli e quant'altro, e necessita la presenza di un medico, un sanitario con un presidio sanitario, quindi l'ambulanza. Croce Verde ve la mette a disposizione, quindi per le vostre manifestazioni sportive, con sede San Mauro Castelverde, Finale di Pollina, Cefalù e Castelbuono. Sono le filiali di missioni ospedaliere, qualora un vostro congiunto dovesse raggiungere, è stato dimesso dal nosocomio e deve raggiungere la propria abitazione, bene, chiamate Croce Verde e con la propria ambulanza vi porterà dove desiderate voi. Risbrigo pratiche e documenti sanitari. Sede a San Mauro Castelverde, telefono 360 86 6082, oppure 333 40 27 332. Croce Verde, e naturalmente ci auguriamo che non serva, ma nel caso in cui dovesse servire è a vostra totale disposizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, sono le 13:10 in questo momento. Ringrazio la parte tecnica sempre Santi, tutti quanti voi per essere stati con noi in buona compagnia. Ci sentiremo domenica in differita dopo le 9:30, potete seguirci per quanto attiene le repliche su podcast sul sito www.crmperedio.it. E cos'altro dirvi? Cercate di farvi un fine settimana all'insegno del sole, del caldo, del mare se è possibile, altrimenti rilassatevi. Da parte mia è tutto, io vi ringrazio ancora e vi do l'appuntamento per giovedì prossimo. A risentirci. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo.